l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori, buon weekend, l'ennesimo di queste feste concatenate, ma oramai molti di voi sono o tornati o stanno tornando oppure non sono mai partiti. Comunque buon sabato 9 di gennaio, sono le 10:06 minuti, quasi 7 minuti. In diretta qui degli studi Radio 24 di Milano, l'appuntamento con una specie di amaro medicinale del fine settimana, come siamo abituati a chiamarlo, cioè con i conti della Belva. E qui ci sono i compari dei conti della Belva che vi salutano, oltre a Oscar Giannino, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, mentre il nostro amatissimo compare Carlo Alberto è perso nelle brume dell'Abruzzo inseguendo qualche orso, qualche orsa, qualche noeuro, non lo so, ma comunque sta in Abruzzo e vediamo se riusciamo a sentirlo. Come sempre vi faccio una sintesi dei temi della trasmissione per invitarvi a intervenire all'800240024 per le telefonate 349-238-6666 per gli SMS. Come sempre cominceremo con il nostro appuntamento rituale, ma che come vedete nel tempo si è confermato come obbligatorio, cioè con Mario Seminerio faremo il punto su i nuovi dati aggiornati della crisi, anzi no, della ripresa bisogna dire, italiana e della frenata mondiale. È un quadro complessivamente interessante, avete visto in settimana nuovi dati man mano che si procede nel tempo per quello che riguarda l'occupazione del nostro paese, il tasso di risparmio del nostro paese, oltre però ai dati italiani, oltre quindi al tasso di occupazione in Italia in termini comparati, insomma è stata una settimana un po' importante anche per quello che riguarda la sveglia venuta dai mercati. Chi credeva che tutto fosse sotto controllo, il problema cinese fosse stato una specie di maltempo estivo e così via, e gli effetti che tutto questo riverbera sull'Italia vedremo come valutarli, ma insomma è un inizio d'anno che merita delle riflessioni rispetto alle linee di fondo con cui il governo ha impostato la sua legge di stabilità, rispetto a quello che leggiamo sui giornali italiani potrebbe essere la sorpresa anche dell'evoluzione di questa posizione. Ne parleremo meglio, alcuni quotidiani italiani ci annunciano un 2016 in cui il governo prenderà decisioni ulteriormente rilevanti rispetto alle regole comuni europee che già tendiamo a non rispettare troppo. Ecco, dopo questo appuntamento abbiamo un primo grande blocco su il grande tema su cui si stanno appassionando milioni di italiani, perché il grande successo travolgente cinematografico di Checco Zalone, sì, ne parliamo anche noi, ci ha invitato a una riflessione, e quindi io vi invito a telefonare rispondendo a una domanda: per chi di voi ha visto il film, visto che il film di Checco Zalone cosa fa? Mette nel mirino del sarcasmo, della comicità, la mania del posto fisso, la pubblica amministrazione inefficiente, i politici dietro che sono e restano traffichini, cioè degli eterni luoghi comuni italiani, però sono i luoghi comuni evidentemente di un'Italia che non cambia. Che non cambia verso, che non ha svoltato, che non ha cambiato la politica, che non ha rottamato quello che si trovava negli stessi geniali accenni critici, più che accenni, perché era più critico secondo me Totò di Zalone su questo. Però se è così, che cosa ci dice tutto questo? Non facciamo un dibattito tra noi e tra voi su che con Zalone politico non ce ne importa nulla. Il problema è che se tanti si mettono in fila, ridono, ed è giusto che sia così, a dei luoghi comuni di un'Italia che non li vede cambiare i luoghi comuni, allora sono quelli il problema italiano. Poi se la politica, voi tutti magari non volete vederli, credete che non c'entrino nulla col successo di Zalone, ecco, noi siamo un po' convinti del contrario, e quindi faremo un blocco di riflessione su questo con un critico cinematografico, ma anche con un economista, per vedere come la pensano su questi argomenti. E poi un approfondimento dobbiamo per forza dedicarlo al tsunami che dalla Cina attraverso i paesi emergenti, alla crisi di instabilità sciita, sunnita e così via, dai mercati rimbalza ai quattro angoli del mondo, collegando insieme cambi e andamenti della moneta da una parte, dall'altra divergenza delle forbici dei tassi di interesse e dall'altra attraverso l'abbattimento della crescita del commercio mondiale sull'economia reale. Sono bastati 6 giorni del 2016 per convincere la Banca Mondiale a tagliare le stime di crescita del 2016 già dell'11%, perché eravamo da un più 3,3%, siamo passati a un più 2,9% e siamo solo all'inizio dell'anno. Ecco, questi i temi su cui vi invitiamo a intervenire, e nel frattempo primo giro rapido di opinioni, cominciando da Mario Seminario, su che cosa ci ha fatto colpito, non solo fatto arrabbiare, ma insomma colpito di più in questo inizio dell'anno. Mario? Direi mi ha abbastanza scioccato, mi hanno abbastanza scioccato i fatti di Colonia, nel senso, e non solo di Colonia, cioè questa sorta di agguato a sfondo sessuale la notte di Capodanno a danni di donne tedesche. Diciamo, questa è una cosa che è nata molto lentamente e poi ha fatto l'effetto palla di neve che diventa valanga, e chiaramente ora minaccia anche la stessa leadership della Merkel, che è già ampiamente minacciata di suo. L'unica cosa che posso dire, oltre al fatto che evidentemente c'è un problema nel senso di gestione, no, di questi flussi di immigrazione, che è culturalmente problematica, se vogliamo usare un termine così di basso profilo, sarà molto difficile procedere ad una integrazione effettiva, soprattutto sui grandi numeri. Quello che è successo a Colonia è veramente scioccante, perché sembra, diciamo, al netto del fatto che si considera e la si tende a rubricare come criminalità comune o quant'altro, mi sembra veramente una manifestazione di scontro di civiltà, però non vorrei, diciamo, essere accusato di leghismo, di destrismo, di altre cose, però trovo veramente un episodio angosciante, così come angosciante quello che stanno gestendo i paesi europei per quanto riguarda i flussi migratori in termini di ampiezza, portata, una sfida di integrazione che io temo molto difficilmente potrà essere vinta. Ecco, se devo dare la mia indicazione, senza che questo implichi altri tipi di giudizi, molto difficilmente potrà essere vinta questa sfida di integrazione. Ma io penso questo: siccome la moneta comune sembra non volerla più nessuno, le regole comuni europee sembrano non volerle rispettare più nessuno, ne riparleremo tra poco. Se facciamo cadere anche una delle poche cose concrete a cui si sono abituati tutti, cioè il fatto di poter attraversare gli antichi confini senza dover mettere mano ai documenti e ai controlli, io credo che veramente venga meno anche l'unica cosa a cui la gente era attaccata positivamente dell'Europa. Questo io lo vivo come una cosa epocale, profonda, perché non credo più che questo edificio di regole, che sono da tutti contestate, violate, disprezzate, i voti si prendono in Europa sempre più solo a far la gara a chi ce l'ha più lungo contro queste cose qui. Dove va nell'evoluzione storica un'Europa di questo tipo? Sai qual è, secondo me, uno dei più grossi problemi che ha avuto l'Europa? È che noi speravamo che l'Italia europea diventasse meno burocratica, invece ci siamo trovati con dei burocrati che assomigliano in un modo pazzesco alla peggiore burocrazia italiana. Però in tutti i paesi europei che hanno problemi, la gara ad attribuirli all'Europa è una gara tra malafede, menzogna, coinvolgimento collusivo di classi dirigenti che hanno le braccia fino alle spalle nella condivisione di regole e prassi che sono dilapidatorie e depredatorie. Questo è il motivo per cui tutti si stanno mettendo dietro la posizione del sospendiamo il bail-in. Ma che cosa ci vogliono imporre? Ma perché dobbiamo fare le rettifiche di bilancio? Ma perché bisogna adeguare la valutazione degli attivi bancari a criteri di mercato? Queste posizioni con cui vi raccontano la realtà ancora adesso, dopo quelle 4 risoluzioni delle banche, ancora adesso di fronte a 360 miliardi insomma tra sofferenze e incagli, sono palle clamorose, collusive, eppure le applaudite. La maggior parte di voi, si vede anche dalle lettere, dagli sms che mandate, che dicono: ma quando è Giannino che la smetti di dirci che bisogna andare in un mondo, smettila, l'Europa, la Germania, contenti voi, convinti voi. Io vedo che anche nei media c'è questo meccanismo che è scattato oramai. Oscar, però una cosa, tornando, facendo un piccolo passo indietro sulla disgregazione dell'Unione Europea, e non tanto dell'Eurozona, ma proprio dell'Unione Europea nella sua interezza. hai notato che dopo l'Ungheria, con questo approccio molto di destra, populista, eccetera, ora c'è la Polonia che sta creando una sorta di asse con Beata Orban. Zilo. No, esatto. E che ha dietro ovviamente Kaczynski, che è il deus ex machina di tutto. È curioso però, no? Perché si tratta di due paesi che non hanno la moneta unica e che hanno parametri di crescita economica complessivamente buoni. Buoni. Per cui non è proprio il concetto che l'euro crea populismi. Crea certamente l'euro con il disagio economico che ha generato, crea populismi. Ma il fatto che a est si stia creando questa sorta di corrente di pensiero, no? Sì. Molto di destra, di estrema destra, cristiana, integralista, ultratradizionalista, ultraconservatrice, eccetera, deve far pensare su tutta la costruzione, su tutta l'integrazione, che era fatale integrare era i paesi fatale, dell'est in contrapposizione alla Russia, all'ex Unione Sovietica. Però a me colpisce, perché questi sono non paesi che sul piano economico stanno performando bene. Sono solidi. Allora, a me ha colpito, voglio dire, pensate solo negli ultimi giorni a cosa abbiamo visto. La Slovacchia che dice basta musulmani, non c'entra niente, sì e no. A me ha colpito che una persona, per benissimo, che io stimo, uno dei pochi magistrati che è ancora in esercizio di funzioni, liberale rispetto al giustizialismo, cioè il procuratore di Venezia, Nordio, ieri abbia lanciato l'idea, un procuratore, dopo che in queste settimane ha ribadito che la sua interpretazione del testo unico di pubblica sicurezza è tale per cui nei luoghi pubblici non bisogna accettare il niqab e il burka e quindi a Venezia non si può più circolare così, ha detto io sarei per fare un referendum se vogliamo gli musulmani o meno. Il procuratore di Venezia. Allora metto in fila con quello che stai dicendo tu, perché è evidente che sono segnali di linee di frattura che vanno avanti, è evidente che c'è un reiterazione anche dell'idea perseguita di come con Prodi abbiamo espanso l'Unione Europea senza pensare a quello che succedeva, però sono tutte cose molto molto molto preoccupanti. Carlo Alberto, ci sei per telefono? Certo, volevo alleggerire un po' questo clima plumbeo che avete gettato sul futuro della nazione e volevo dire che questa settimana invece io celebravo, ieri era il compleanno di un grande eroe, Roy Batty, il replicante di Blade Runner. Ieri ha compiuto gli anni, perché ieri si celebrava proprio la sua l'attivazione, non il compleanno, il compleanno di Roy Batty. E lo dico perché è giusto invece celebrare sul fatto che di replicanti ne abbiamo tanti anche qua nel governo, cioè abbiamo gente che vede cose che noi umani non riusciamo neanche a immaginare. Ma come? Sei sempre stato delle tasse. Sei sempre stato tu il difensore del governo in questa congrega di Gufi. A settimane alterne, quando voi accedete divento renziano. Ah, quando invece voi vi finite sul territorio del leghismo, io faccio il liberale duro e puro. Comunque sono auguri a Roy Batty, a un grande film. Auguri a tutti quelli un po' matti, replicanti, che vedono cose che noi umani non riusciamo a vedere, perché quest'anno secondo me veramente ce ne farà vedere di tutti i colori. Ah, beh. Parleremo del resto della trasmissione. Allora, questo è l'inizio, no, non esatto. So quello. Resta con noi che ricominciamo subito appunto con Agapunto della crisi. Torniamo subito. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci tornati e riparte per un secondo la sigletta della nostra rubrica A che punto è la crisi. Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta. Una rubrica che all'inizio si chiamava Seminario in crisi e invece è che poi è stata rititolata No, la crisi resta degli altri. Allora Mario, cosa partiamo? L'occupazione? No, questa settimana molti dati prevalentemente positivi per l'economia italiana, ad esempio gli indici dei direttori acquisti della società specializzata Market, quindi manifattura e servizi, sono numeri molto buoni, sono numeri ai massimi diciamo pluriennali anche da 4-5 anni a questa parte, e sono numeri che se guardiamo le correlazioni statistiche promettono una crescita del PIL italiano del quarto trimestre dell'ordine dello 0,3-0,4%, che è sicuramente, se realizzata, è molto buona. Ora, a me preoccupa un po', perché questi diffusion index di Market, che sono comunque uno strumento di lavoro, perché sono, diciamo, permettono di anticipare quello che poi accadrà nei dati di PIL, sono molto importanti per chi fa il nostro lavoro, cioè il mio, diciamo, ma ho l'impressione che recentemente, negli ultimi trimestri, non si traducano automaticamente in crescita vera, per cui cominciano a ricordarmi il superindice OCSE. Negli anni scorsi, già ad esempio durante il governo Berlusconi, quando il superindice OCSE mostrava che l'Italia era in espansione, sembrava che fossimo pronti ad un boom stile anni 50-60. Dopo due trimestri si vedeva che la crescita era di zero. Per cui questo è abbastanza. Però io vorrei segnalare un attimo, vabbè, sull'occupazione è buona, è un'occupazione che è coerente con la crescita del prodotto interno lordo, questo ve l'ho detto fino alla nausea e ora nauseato sono io, per cui eviterò di continuare a ribadire il concetto. Però ieri Istat ha pubblicato anche il rapporto trimestrale su redditi e risparmi delle famiglie e profitti delle società, e questi secondo me sono numeri molto interessanti perché gettano luce su alcune tendenze profonde dell'economia italiana che a volte sono ignorate. Allora, il potere d'acquisto delle famiglie italiane nel terzo trimestre è aumentato dell'1,4% rispetto al trimestre precedente. Cos'è il potere d'acquisto? Il potere d'acquisto è una grandezza reale, cioè indica per un dato reddito disponibile, che è lievemente aumentato nell'ultimo anno in Italia, quanto è possibile comprare, cioè il paniere che è possibile comprare potenzialmente. Infatti si chiama potere d'acquisto, non c'è bisogno di essere filosofi greci per capire la differenza tra atto e potenza. Però è importante però è capire la capire differenza questo, invece esatto. Rispetto al reddito disponibile. Esatto, quindi che cosa vuol dire questo? Che la disinflazione dell'ultimo anno e la stabilizzazione, il lieve aumento del reddito disponibile hanno determinato un risultato confortante e positivo di aumento del potere d'acquisto. Piccolo particolare, questo dato è vero per tutta l'Europa. Quindi qua non ci sono meriti specifici. Dopodiché, gli acquisti veri e propri sono stati inferiori alla crescita del potere d'acquisto, ergo è aumentato il tasso di risparmio, che come voi sapete è la bestia nera del nostro Presidente del Consiglio. L'espressione è il fatto che gli italiani hanno paura. Lui è convinto che ogni volta che aumenta il tasso di risparmio la gente sia terrorizzata. Gli lasciamo questa credenza, diciamo. Magari tiene da parte i soldi per pagare le tasse. Già, anche questo, magari si è accorto che c'è un lieve diciamo aumento del deficit e prima o poi i deficit vanno ripagati, forse. Però ci sono altri due dati, per non tediarvi troppo con le tecnicalità, soprattutto i nostri messaggiatori compulsivi del sabato mattina, diciamo che vogliono cose rapide e immediatamente fruibili. Il tasso di investimento delle aziende non finanziarie, bravo, ci segnala Istat che è, diciamo, cioè il rapporto tra gli investimenti fissi lordi e il valore aggiunto nel terzo trimestre è stato del 18,8%, quindi meno 0,3% rispetto al secondo trimestre e meno 0,2% rispetto allo stesso trimestre del 2014. Cioè, termini congiunturali e tendenziali. Siamo ancora al segno meno che continuo degli investimenti. Esatto. Notate che nel 2010-2011, quindi prima del crash europeo di questo paese, questo tasso di investimento calcolato da Istat si aggirava intorno al 22%, per cui del valore aggiunto. Per cui mancano ancora 3 punti percentuali, ma soprattutto se voi andate sul sito dell'Istat e vi prendete i grafici, visto che magari piace anche guardare le immagini, diciamo, colorarle ogni tanto con le matite, vedete che c'è una tendenza che è inequivocabilmente decrescente. Ergo, in Italia sono aumentati nell'ultimo anno confortevolmente i consumi, confortevolmente rispetto agli anni recenti, perché è aumentato il potere d'acquisto e c'è stata una stabilizzazione del mercato del lavoro che ha dato più fiducia alle famiglie. Questo potere d'acquisto però non sta spingendo il paese dove dovrebbe, perché non è l'unica cosa che serve. Gli investimenti continuano ad essere pesantemente latitanti e questo contribuisce al buco di domanda aggregata. Naturalmente la cosa su cui interrogarsi è che cos'è che spinge, quali sono i diversi fattori che inducono le imprese italiane a stare ancora così strette sull'orizzonte previsivo degli investimenti, oltre a un sentiero, diciamo, modestamente riaccelerante della condizione della domanda italiana. Quanto conta su questo il problema bancario, la somma di sofferenze e incagli e il fatto che le imprese italiane e le aziende bancarie dall'altra parte non vedano una prospettiva a breve per la soluzione di questo problema? Secondo me tanto, tantissimo, eppure non vedo i segni di consapevolezza di questa questione, perché questo sta diventando proprio il nodo irrisolto del piombo che resta da trattare nei conti delle banche e nei crediti deteriorati sta diventando uno dei più grandi macigni che impediscono a questo ottimismo molto diffuso, quello da cui sei partito, no? Negli indicatori di aspettativa molto elevata, di tradursi poi in meccanismi concreti, cioè che poi scatti davvero la molla in concreta. Aggiungo solo una cosa, dati dell'occupazione sono da considerare una ragionevole indicazione di un passo in avanti, di un miglioramento. Resta il fatto, la domanda che io mi ponevo prima dell'inizio del 2014, nell'autunno 2014, quando mi dicevo: ma caro governo Renzi, ma sei sicuro di voler dare la decontribuzione all'ordo di tutti i nuovi contratti, e cioè senza riservarla a quelli veramente aggiuntivi rispetto alle piante organiche? Ecco, secondo me, da questo punto di vista, chi come me, come Luca Ricolfi, pochi altri, hanno posto pubblicamente questo tema, i numeri credo che ci diano ragione, nel senso che se a fine novembre 2015 rispetto a fine novembre 2014 abbiamo i 205.000 occupati in più, e questi 205.000 occupati in più, oltretutto, nella classe, nella corte 15-24 l'occupazione è scesa, abbiamo questi 206.000 occupati in più a fronte comunque di 139.000 inattivi in più che contribuiscono a far scendere la disoccupazione, tutti siamo contenti, però c'è questa componente dell'aumento degli inattivi. Se poi andiamo a vedere sui 206.000 occupati in più, in realtà sul totale dell'occupazione, l'occupazione a tempo indeterminato, quella su cui si è attivato per miliardi di euro la decontribuzione, quella è aumentata del più 1,8%, mentre quella a tempo determinato è aumentata del più 4%. Allora, il bilancio complessivo, di cui come vedete qui noi non neghiamo gli aspetti positivi, però il bilancio complessivo, quei miliardi della decontribuzione non hanno sortito nel 2015 l'effetto che era voluto. E secondo me la stessa cosa varrà, a proposito degli investimenti, per i maxi incentivi per gli investimenti disposti in legge di stabilità per il 2016, ecco, anche in quel caso all'ordo degli investimenti e non per quelli addizionali. In quel caso, secondo me, si mira al bersaglio grosso anche del consenso, parliamoci chiaro, e lo capisco, ma l'effetto di scaricare poi l'energia dal motore sulle ruote si vede poco. Caro Alberto, tu che ne pensi? Io voglio segnalarvi un altro fenomeno. È vero che il risparmio tende a crescere, ma si è spostato in massa a dicembre. Una cosa che mi piace segnalare, che sono usciti dati ieri e l'altro ieri, è che aziende come Fineco, aziende come Mediolanum hanno raddoppiato in un mese la raccolta netta rispetto all'anno precedente. Sono segnali importanti quando fai più 76%, più 98% in un mese. Tu dici fuori dalle agenzie con i mattoni tradizionali delle banche italiane. Voglio dirvi questo, che lo shock del 22 di novembre con il decreto sulle banche ha spostato ciò che non si spostava da decenni, e cioè la tradizione del risparmio degli italiani depositato nella banchettina sotto casa. Speriamo. Le banche moderne, le banche a rete, stanno beneficiando della crescente del scetticismo e della fiducia che qualche italiano sta manifestando nei confronti di qualche banca che non è stata trasparente. È un segnale storico questo, perché non si è mai verificato un picco di questo genere qua. Quindi è vero che il reddito è potenziale, in compenso il risparmio comincia a ascoltare argomenti e a prendere strade che non ho mai visto in termini di trend. È la prima volta che sono questi smottamenti tellurici nella locazione dei risparmi italiani in un mese soltanto. Evidentemente quel 22 novembre fa da spartiacque, gli italiani sono svegliati in una notte con il fatto che finalmente la Repubblica Italiana non paga più i conti delle banche, non ha gestito bene il processo di comunicazione, ma di fatto qualcuno sta prendendo decisioni che non prendeva da decenni. Non lo so, io invito tutti voi compari e tutti voi in ascolto a riflettere. Oggi il Foglio, il quotidiano Il Foglio, diretto da Claudio Cerasa, ci dà un annuncio: basta con il fiscal compact. La pazza idea di Renzi per il 2016, pare che a Palazzo Chigi si siano resi conto che non c'è possibilità e non c'è utilità, soprattutto l'anno prossimo, di dover di nuovo concentrare il più delle energie sulle clausole fiscali che questo governo ha semplicemente semplicemente spostato, arrollato in avanti come una palla di neve. Quindi l'idea sarebbe quella, ma basta con questo obiettivo di medio termine, basta con il fiscal compact, noi sfondiamo tutto e cambiamo tutto, e o si cambia o noi continuiamo a sfidare l'Europa. Allora, questa è l'idea di questi amici di Renzi, del Foglio, che dicono di essere liberali e però inneggiano a questa svolta che sarebbe pronta. Sotto c'è un altro articolo che dice che bisogna fare lo stesso col bail-in, ma basta con queste regole europee, non hanno nessun senso. Ma chi l'ha detto, come dice adesso Carlo Alberto? Ma chi sei tu, Carlo Alberto PD, che non devono essere gli stati a tutelare i famosi risparmiatori? L'ha scritto anche Zingales che bisogna fare la moratoria del bail-in, l'ha scritto Guiso, anzi Alberto Alesina dice che bisogna avere la patente coi punti per avere un conto bancario, non per fare gli investitori, per un conto bancario. Carlo Alberto, secondo me noi stiamo sbagliando tutto, guardate che l'aria delle classi dirigenti italiane è questa qua, buttare tutte le regole per aria e continuare nella collusione. Sbaglierò io, ma io la vedo un po' così. No, forse le classi dirigenti italiane sono talmente disperate, perché questa è la realtà delle cose, che piuttosto che mettersi in mano, prendo la responsabilità di quello che dico, anche perché sono una persona libera, pago le tasse, sono nella pienezza dei diritti civili e politici, avviso agli ascoltatori, Okay? Anziché mettersi in mano a gente che vede complotti alieni, scie chimiche e quant'altro, non resta che Renzi in questo contesto. Bravo, questa è la... questa è una tecnica di riduzione del danno, questa, come dice la scuola radicale. Questa è una tecnica di riduzione del danno. E quindi meglio non rispettare più le regole europee, anzi orinare sull'idea europea, attribuire tutto ai tedeschi, continuare a usare i soldi di Stato per tutelare le banche e chi le amministra. Vedo che oggi per esempio la Stampa di Torino, io applaudo a Maurizio Molinari, è arrivato direttore della Stampa e finalmente ha iniziato a fare le paginate sui blocchi politico-familiari che da decenni controllano le piccole banche italiane, perché di casi come Banca Etruria ce ne sono decine e decine e decine nel sistema delle popolari e delle BCC italiane. Applaudo alle paginate della Stampa di Maurizio Molinari, forse perché Maurizio Molinari è stato fuori dall'Italia per lungo tempo e quindi è meno parte del gioco collusivo dei direttori che per avere una testata alla RAI o degli amici alla fine su questo frenano molto. Caro Alberto, tu che ne dici? Siamo troppo pessimisti? Allora ti tocca fare la parte di chi ci dirà che il governo invece non è vero, che smentirà le regole europee e andrà avanti sui meccanismi di risoluzione di mercato. Tu che pensi? Che la giurisdizione sulla gestione delle banche l'abbiamo persa e quindi i proclami su cosa fare delle banche sono grida manzoniane. Il potere legale di gestione delle crisi bancarie e del, ma non solo, anche che stanno tutti parlano del bail-in, però la verità è che il 1 gennaio è entrata in vigore la direttiva europea sulla risoluzione e sulla recupero delle crisi bancarie, quindi quest'anno la BCE metterà le mani nei business model, nelle scelte gestionali delle banche. Quindi plaudo all'iniziativa di Molinari di mettere luce su questo, perché se non lo fa la stampa, se non lo fanno i media, guarda che lo farà la BCE. Da quest'anno tutti dovranno mettere sul piano i loro business plan e se le banche non sono convincenti entreranno nel processo di recovery. Quindi il governo ha un bel dire: faremo, disferemo, usciremo. La verità è che sulle banche siamo concentrati come sull'euro, abbiamo ceduto la sovranità bancaria a comandare sui processi bancari, almeno in casi di crisi vedremo l'Europa, quindi vedremo sì. Io vedremo, mi sono già comprato birra e popcorn, io vabbè, però è come assistere però applaudendo all'incendio di Roma. Detto tutto questo, io ho visto ieri qual è stato il tasso di abbattimento della cessione dei non performing loans fatta su quell'operazione da 300 milioni di nominale residuo delle BCC. E caro Alberto, si vede che le polemiche che sono scattate quando il tasso di abbattimento del valore nominale è stato di 83 punti su 100 di nominale delle quattro banche risolte, è stata una votazione ottimistica rispetto a quella che si è vista ieri nell'operazione fatta dalle BCC. C'è da pensare, caro Alberto, perché se applichiamo quel tasso di abbattimento al totale di somme di sofferenze in calice, cioè 360 miliardi, abbiamo un'idea del buco. Abbiamo fatto i conti e ieri qualche simulazione applicando quel tasso di copertura vicino al 90% arriveremmo a qualcosa tipo 50, 60 o 70 miliardi di buco implicito. Infatti io non vorrei essere nei consigli di amministrazione di una banca che deve approvare bilanci allora, con questi valori. Scusa, spieghiamolo meglio, perché tra noi ci capiamo al volo, ma chi a casa no. Allora, siccome ieri c'è stata un'operazione di cessione di mercato di credito deteriorato da parte di banche di credito cooperativo e il tasso di cessione di questi crediti deteriorati, che comunque non sono già valore, stati rettificati. Il tasso di cessione... il tasso di abbattimento del valore, perdonami, sì, è stato del 90%. 90%, del 90%. E badate bene che hanno ceduto crediti che erano già rettificati nel tempo e coperti da garanzie. Quindi, però è stato del 90%. Cari ascoltatori, se applicate un tasso di abbattimento del valore del 90% ai 360 miliardi in pancia alla Banca Italiana di somma tra sofferenze e incagli, è come se fossero corte di capitale immediatamente. Se dovessero fare un'operazione di questo tipo oggi o comunque nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e dovrebbero farle, capito? Per liberare capitale, fare più impieghi, come se avessero bisogno di 60 qualcosa miliardi di euro di capitale che gli azionisti italiani non hanno. Questa è la dimensione dei problemi. Sbaglieremo noi, Mario, che dici? No, è chiaro che il mercato si preoccupa di questi valori di cessione e penalizza le quotazioni delle banche italiane, perché cioè, il settore bancario è quello che sta performando peggio della media, diciamo, degli indici generali. Qui c'è un po' di inquietudine, vediamo come andrà. Io dico, tutte le operazioni di cessione di sofferenze che avvengono sul mercato sono una cosa buona, quindi forse non c'è bisogno di una bad bank, però io sono notoriamente un sognatore, un idealista. Sì, sognatore, sì, esattamente. Allora, chiudiamo questo capitolo iniziale e andiamo alla domanda di fondo. Ma se Zalone vi fa ridere e fa tanto successo e incasso perché mette in berlina l'età del posto fisso, della piena efficiente dei pubblici trafficoni, non è che bisognerebbe dargli retta anche in politica e non solo per ridere? A tra poco. Della belva. Ragazzi, noi siamo i posti fissi, non ci fa niente nessuno, state tranquilli. Il nostro signore, sin da quando siamo bambini, ci dona dei talenti. La veterinaria, lo scienziato. E tu, Checco, che vuoi fare da grande? Io voglio fare un posto fisso. Ecco qua, naturalmente stiamo parlando del successo cinematografico travolgente con incassi in pochi giorni che fanno a pezzi l'episodio di Star Wars, che però a livello mondiale si avvia a essere invece il film che incassa di più, di Luca Medici, in arte Checco Zalone, che nel suo nuovo film, appunto, come vedete, mette in berlina l'Italia del posto fisso. L'Italia eternamente del posto fisso, non è cambiata dagli anni 50 a quanto pare, altro che tutte le nostre chiacchiere sul nuovo mercato del lavoro. L'Italia del posto fisso pubblico, perché si parla delle poste naturalmente, l'Italia del posto fisso pubblico che Cozzolone tanto vuole difendere, che accetta l'idea pur di rimanere nel posto fisso pubblico di andare anche all'estremo nord, dove gli capiteranno un po' di vicende, e naturalmente con politici della prima repubblica a cavallo della seconda, trafficoni, c'è cioè un camion di Nino Banfi e così via. Allora, di questo parla il film, e a questo punto noi ci siamo chiesti, ma insomma, dietro che cosa c'è? C'è un uomo Totò, ve lo ricordate il Totò degli anni 60? Il Totò degli anni 60 era molto coraggioso all'epoca, stiamo parlando di anni subito successivi, immediato dopoguerra. Fare come faceva lui, attaccare così frontalmente lo Stato, le tasse, mettere anche spesso in parodia gli antifascisti, era una cosa che non gli giovò nel giudizio così della critica cinematografica. Prendiamo per esempio il Totò che parlava così. Io sono un cittadino che pago le tasse, lo Stato mi deve proteggere, voglio i carabinieri, la fanteria, i bersaglieri. Andiamo, andiamo, non esageriamo, signor Bonocore. E non alziamo la voce. Ecco, cioè, fin come i tartassati restano nella storia cinematografica italiana, ancora oggi tutti quelli che come noi gemono sotto il fisco hanno quel tipo di cinematografia. Quindi nella storia italiana c'è una grande, altissima vena di cinematografia comico-satirica che aveva come berlina, nel mirino, ciò che non funzionava nello Stato, nel ridipingersi politicamente continuando vecchie pratiche di sempre. Zalone riscopre questa roba che nella comicità degli anni 80 e poi nella comicità di sinistra anti-Berlusconi eccetera era completamente sparita, a dire la verità. Però è un sintomo o è qualcosa di permanente? Allora, abbiamo in linea con noi il nostro ospite, perché non riesco a vedere, non ce l'abbiamo? Ah no, sì sì, mi dicono no sì sì, ma no sì sì, non ho capito. È sulla linea 1? No, nel quadro che no, c'è. In un minuto. Allora, abbiamo con noi il professor Riccardo Puglisi, che ha sollevato con una serie di tweet una domanda diretta. Riccardo Puglisi insegna al professore associato all'Università di Pavia. Professore Puglisi, lei il film l'ha visto? Assolutamente sì. Le è piaciuto? Gennaio. Ecco, il primo sì, gennaio. Sì, assolutamente. E che, grandi tempi comici. E si è posto subito un problema che ha twittato. Sì, la questione è il che sembra sostanzialmente che la, anzi mi è venuto in mente perché mentre ero al cinema la persona di fianco a me ha fatto, ma la trama l'ha scritta tu, Cottarelli, è stato il primo commento che è stato fatto dalla persona seduta di fianco a me e che io condivido, perché il film sembra veramente, sì, hai ragione sul fatto che si iscrive in questa storia della comicità italiana per cui bisogna, come tutta la comicità, bisogna prendere di mira i difetti di un paese, di un popolo, eccetera eccetera. Quindi a parte Totò ricorda anche un po' Fantozzi. Infatti ho scritto un pezzo sull'inchiesta in cui cito anche Fantozzi, perché cioè, il voglio fare il posto fisso è qualcosa per cui conta il posto fisso, conta l'amministrazione pubblica, conta starci dentro, e tra l'altro tutti quelli che sono fuori vogliono entrarci. Quindi non è che ci sia un manicheismo, una dicotomia del tipo l'amministrazione pubblica brutta, però invece tutto il resto è bello. E assomiglia un po' a Fantozzi, nel senso che non è che ci sono i cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici, ci sono i posti fissi sostanzialmente, ci sono quelli al centro, e Checco Zalone in questo film fa di tutto per tenere il posto fisso anche finendo in posti improponibili. Ma l'impressione che ha avuto il professor Puglisi andando a vedere e ponendo questo tema è che chi applaude appunto perché continua a crederci pure lui al posto fisso e si immedesima in quello che chiede il protagonista, nel qual caso, cari amici pochi, pecore nere, liberali, liberisti in ascolto, vuol dire che siamo fottuti in eterno e per sempre, perché significa, oppure ridono perché dicono ma tu guarda, ancora c'è chi crede al posto fisso. Lei che impressione ha? Secondo me è la prima, secondo me più la prima, non saprei. È una cosa un po' in transizione, perché è come se fosse un Fantozzi che viene immerso in una situazione in cui per evidenti motivi di spesa pubblica elevata, debito pubblico elevato, lo status quo precedente non può essere mantenuto, quindi è come se ci fosse una transizione, tu vieni messo dentro e così l'amministrazione pubblica in una situazione che non può andare avanti, e infatti c'è questo ministro nel film che decide di eliminare le province e quindi va giù, è come se un Cottarelli quasi più britannico fosse diventato ministro, cosa che non è accaduta nella realtà. E tra l'altro è interessante la sequenza temporale tra i due film, cioè il film precedente che è Sole Catinelle, seguito poi da Covado, e Sole a Catinelle in questo pezzo sull'inchiesta lo evidenzio come un film più renziano, perché il protagonista lì ha una specie di serendipity un po' cazzona, un po' improvvisatrice, per cui tutto gli va bene in qualche modo. Qui non c'è nessuno spoiler perché è il film dell'anno scorso. Invece questo film, invece di essere renziano, è cottarelliano, perché è vero che non è chiaro quale sia l'attitudine del pubblico, per cui qualcuno potrebbe essere nostalgico, ma come sottolinea la canzone del film cantata a modello Celentano, cioè la prima repubblica non si scorda mai, c'è questa denuncia con un po' di nostalgia, ecco, io la vedrei così, sia dal lato del film che dal denuncia lato con un po' pubblico. Di nostalgia. Allora naturalmente mettendo le mani avanti, torniamo tra un minuto, ma restiamo sempre sullo stesso tema perché voglio un giro di tavolo, cominciare da Carlo Alberto su questo. Mettendo un po' le mani avanti, non ci passa manco praticamente del cervello di dare patenti politiche a Zalone, ci mancherebbe altro, però la questione è capire se il punto che questa volta lui mette in berlina, cioè la cosa del posto pubblico dello Stato mamma da mungere, no? Quando spiega la tredicesima è fantastico, dice un mese una freccia un bisonte, un mese una freccia un bisonte, un mese due frecce due bisonte, come dire, sono proprio cose che danno l'idea del lavoro dipendente garantito fisso di Stato. Allora, per noi porci il problema se l'Italia è nostalgica di tutto questo, Beh, aiuta a capire, perché alla fine vorrà dire che forse ha ragione Cerasa, perché Renzi alla fine dirà: ma buttiamolo per aria al fiscal compact. Forse ha ragione la connivenza delle classi dirigenti che dice: ma perché fare il bail-in e accettare una regola che le banche, se mal amministrate da amici degli amici per tanti anni, devono poi chiedere ai loro azionisti, a chi gli ha dato i soldi, gli obbligazionisti, di dover ripagarne la rimessa in bonus? No, ma continuiamo ad accettare l'idea che sia lo Stato, gli amici degli amici, eccetera eccetera. Attenzione, perché questi segnali contano. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, Zalone ha scritto un film avendo Carlo Cottarelli come autore dei testi, naturalmente, provocazione paradossale, il professor Riccardo Puglisi che è con noi. Io ho già detto la mia, io penso che gli italiani applaudano, ma sono più nostalgici che critici dello Stato mamone da mungere. Mario, che dice? Ma io premesso che non ho visto il film e c'è secondo me una discreta probabilità che continuerò a non vederlo. Non fare lo snob. No, ma per carità, cioè che io proprio vado poco al cinema, quello è il mio problema. Vabbè, perché stai a casa e usi gli aggeggi Netflix. Sì, uso gli aggeggi, che detto così suona male. No, vabbè. Allora, no. Da quello che intuisco, diciamo, dal commento, io credo che gli italiani effettivamente siano nostalgici. No, perché c'è una forte componente del bel tempo andato fu, che parte veramente da lontano. Pensioni di invalidità come se piovesse, pensioni dei coltivatori senza contribuzione. Bravo. Però bisogna separare la previdenza dall'assistenza, tornare all'epoca d'oro in cui non c'era ancora stato il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia. Esatto. Quando si finanziava, si monetizzava il deficit. Siete troppo culturali. Aspetta che ci arrivo. I bei tempi in cui c'erano le case chiuse, no? Voglio dire, tutte queste cose qui, no? Che sono un po' salviniane, un po' leghiste, da piccolo mondo antico. Anche un po' abruzzesi, poi sentiamo Carlo. Sì, d'accordo, ma il problema è che gli italiani, essendo una popolazione anziana, tra le più anziane del mondo, vivendo di sradicamento della serie fermate il mondo, voglio scendere, non hanno le risorse culturali e anagrafiche per non riuscire a scendere dal mondo, qual è la prognosi? Io non lo dico, perché tanto poi dicono che sono prevedibile. Esatto, però l'hai detta a me abbastanza chiara. Che dici di Carlo Alberto tu? Che la cinematografia italiana sta facendo un grande servizio alla comprensione del nostro paese. Noi siamo passati a parlare di posto fisso ai tempi di Elsa Fornero, vi ricordate? Sì. Quindi dalla tragedia, e adesso passiamo alla commedia di Luca, dice che con Zalone, passando attraverso Sorrentino, la grande bellezza che invece parlava della borghesia, di chi viveva di rendita, perché di questi sono i fatti, no? Quindi noi stiamo parlando di un paese che cinematograficamente passa, televisivamente passa dalla tragedia della Fornero alla rendita di Sorrentino. Ovviamente al sarcasmo. Sì, ma rispondi anche tu. Di fronte al sarcasmo, alla fine chi applaude è più nostalgico, come pensiamo me, Mario e io, o in realtà vive in un mondo nuovo e quindi dice: ah, vabbè, possiamo ridere perché non vale più la vacca mucca, la mucca pubblica da mangiare. Io invece penso che sia un riso amaro. Penso che la gente si è resa perfettamente conto che quei tempi non tornano. È un'amarezza con un tono di nostalgia, ma con la consapevolezza che sta arrivando. Ma se anche i cinesi non riescono più a fermare la bocca, scusate. A proposito del fatto che mi cadono le braccia, ho letto l'editoriale del Corriere della Sera dopo quello di Alesina. Per me è inconcepibile che un liberale come Alesina faccia una tale caduta. Mi prendo la responsabilità di quello che dico. Ieri ho letto Lucrezia Reichlin sostenere che l'instabilità è colpa dei mercati cattivoni e al massimo della Svizzera, non dei comunisti cinesi, che hanno loro sì tutto sotto controllo. Io penso che, con tutto rispetto per Lucrezia Reichlin, quando leggo editoriale simile su Corriere della Sera c'è qualcosa di profondo che mi sfugge. Evidentemente o me ne devo andare in un monastero, oppure proprio non è accettabile dare analisi di questo tipo, caro Carlo Alberto. Però gli italiani sanno che quella domanda di garanzia, quella domanda di protezione che stanno innalzando è tanto dolorosa quanto impossibile. Secondo me questa invece è il segnale. Tu la pensi così? Sentiamo un po' come la pensano i nostri ascoltatori. Sandro da Ferrara. Siamo fottuti, Giannino. Ah, ecco, allegria. È molto semplice, no? Siamo fottuti, perché io ho visto il film, ho sorriso, sono uscito con un magone, devo dire la verità, e ho visto gente che non ci ha capito nulla di quel film. Sì, è divertentissimo perché mette in conto tutto quello che noi sappiamo, perché ci raccontano chi lavora nella pubblica amministrazione. Io addirittura con un caro amico che lavora nella pubblica amministrazione mi ha detto: guarda che c'è molto di peggio. Ecco, te sì, ci è andato con la mano leggera. Poi apro una piccola parentesi. Se i giornali, che adesso sono tutti aggregati a questo carrozzone, no? Sì. Quasi tutti, diciamo così, spostano gli anni della crisi in avanti per creare dei dati meno catastrofici, sì. Allora siamo non fottuti. No, ma lei si riferisce al fatto che ci hanno spiegato, ed è stato ancora una volta il Corriere della Sera, incredibile a dirsi, che non bisogna fare più i paragoni col 2008, perché tutto è cambiato. Naturalmente questo dovrebbe valere solo per l'Italia, ma non per gli altri. Meglio fare dal 2010, quando i dati erano già incorporato rispetto alla grande botta. Hanno letto Orwell. Ecco, un'Italia che fa così sulle statistiche per assecondare le pretese di Palazzo Chigi o di chiunque. Cioè, perché non c'è solo la politica che deve mascherare il disastro italiano. Hai ragione tu, è un paese con le pezze a colori, ecco, diciamo così. Però a me amareggia molto la complicità spontanea del sistema dell'informazione, perché vuol dire che c'è qualcosa di profondo che non funziona proprio. Come la pensa Giuseppe da Caltanissetta invece? Sì, buongiorno. Eccoci. Io l'ho visto, ho una lettura un po' in pratica, non ho applaudito per nostalgia, ma il mio applauso e sorriso amaro è che siamo in un'Italia fotografata benissimo, che ci portiamo adesso avanti, i Cottarelli, sceneggiature dei Cottarelli mi sembra azzeccato, e credo che a tutti noi è capitato di girare uffici pubblici e vedere veramente tanta gente che, o tanti uffici, ma che fanno questi tutto il giorno? Questo io l'ho letto, è realtà, e poi quello che stiamo pagando, invalidità, io vivo al sud e quindi questa cosa l'ho vista 30 anni fa, 20 anni fa, di tanta gente invalida, ma che di invalido aveva poco. Allora, lei dice l'Italia è rimasta così, questo i dati dicono che in larga misura è rimasta così. Il problema è la consapevolezza, se fosse mutata o meno. I consensi iniziali al rottamatore ruggente, cioè al rottamatore, quello che suonava la carica, per capirci, perché così sembrava Renzi. Suonate la carica! Sembrano adesso paradossalmente volgersi in un Renzi che, leggendo nella profondità delle carni e delle menti italiane proprio questo aspetto di nostalgia di cui parlava Mario e che io temo, si rimpannucci in un'idea invece molto meno rottamatrice, molto più tradizionale italiana, sia pure interpretata con un po' più di comunicativa nuova, quella di Sensi, che a questo punto sarebbe il capo del trasformismo comunicativo, quale innovatore della comunicazione. Che dici? C'è un problema proprio profondo, che è quello del cambiamento. Allora, il cambiamento te lo dice chi fa impresa e quindi gestisce giorno per giorno il cambiamento, o cerca di far gestire il cambiamento. Il cambiamento è qualcosa che tutti vogliono, però tutti vogliono il cambiamento degli altri, sì. Però vogliono rimanere tutto sommato in quella che si chiama la loro zona di comfort, quindi vogliono rimanere un po' nella bambagia della mamma. Allora tutti dicono certo che bisogna cambiare, perché credo che chiunque in questo paese si renda conto che il paese deve cambiare, però deve cambiare tendenzialmente l'altro. Mm-hmm. E quindi quando è arrivato Renzi, tutti a dire sì, finalmente arriva lui. Purché no? Sia l'altro. Purché chiuda la provincia, ma io lavoro nel comune. Tassi il ricco, ma io sono povero. Faccia questo, ma io sono fuori da quella cosa lì. Esatto, appena arriva e comincia a dire, tu hai la pensione di invalidità, ti allora facciamo il controllo. Mia nonna ha diritto alla pensione di invalidità o alla pensione di accompagnamento. Però Renzi non sta facendo questo. Renzi non ci ha provato neanche. Esatto, perfetto. Renzi è consapevole che il consenso, ma gliel'hanno fatta cambiare, è importante. Lui ribadisce ossessivamente che lo statista lavora per le prossime generazioni e non per le prossime elezioni. Ma però credo che predichi bene, razzoli male. Ma c'è, poi c'è allora, un problema vedete, generale comunque, secondo vedete me. Vedete un film, e qual è il problema generale? Il problema generale è credere che c'è un problema generale i livelli così bassi perché di produttività e di partecipazione al mercato del lavoro si risolvono con la continuità. O quando io dico di livelli bassi, tasso di occupazione italiano resta 18 punti, 18. Per essere chiari, punti più basso di quello tedesco. Ah, 18 punti sono. Senti, l'Oceano Atlantico e Pacifico sommati insieme. Parlavamo prima degli investimenti. Noi siamo 55, per essere chiari, noi siamo poco più del 55%, loro sono il 73%, cioè stiamo parlando di una roba. È colpa dei tedeschi e dell'Europa. Ma che cazzo? C'è anche un po' di struttura diversa perché c'è molto più part time. Però parlavamo prima degli investimenti e del discorso degli indici sui direttori acquisti, no? Allora, lì ci sono due. La cosa che a me spaventa di più è che in questo momento ci dovrebbero essere degli investimenti per cambiare, per cambiare i prodotti. Prodotti e processi. Proprio e processi. Di quello è il problema dell'investimento di discontinuità che non sta arrivando. Perché l'investimento sulla capacità produttiva non ne abbiamo bisogno. Allora, il problema sarebbe il problema sarebbe capire quanti degli investimenti che stanno arrivando sono quelli per la rottura e il cambio di paradigma. Perché questo è quello che ci salverà negli anni prossimi. Ma se noi non facciamo quello, dobbiamo tornare a Riccardo Puglisi per porre anche lui la domanda: siamo fottuti perché sono più nostalgici che altro, che applaude oppure no? Boh, diciamo, secondo me non siamo fottuti, perché pensare che un paese sia fottuto, secondo me si scontra con l'idea del fatto che ci vuole l'ottimismo della volontà, ma dall'altra parte secondo me va bene che un comico faccia ridere, cioè bei tempi comici raccontando la realtà, bisogna che ringraziamo Zalone, e solo grazie a Zalone se pensiamo ancora che un qualche ombra di Cottarelli sia ancora tra noi. Grazie al professor Puglisi che ha lanciato questa provocazione. Noi torniamo dopo Giornale Radio. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati con i compagni dei conti della Belva, Oscar che vi saluta, Mario, Renato e c'è anche Carlo Alberto d'Abruzzo. Ciao a tutti. Ma sei al parco? No, sono sulla maiella. No, stai stampando orsi? No, sta stampando lire a Pescara. Sull'autostrada per Pescara c'era un cartello tipo in memoria della lira, c'era tutte le 10.000 lire. Non è strano, tu sai che ci sono dei tour a pagamento che da tutta Italia si dirigono verso un noto santuario della lira che sta in Abruzzo, e quindi loro disseminano negli autogrill, mettono i loro santini, è ovvio che l'hai trovato. Quindi... Vabbè. Ma di la verità che anche tu stai andando esattamente a quel santuario. No, escludo, caro Oscar. Vabbè, per chi pensasse a casa che siamo tutti impazziti, mi sto riferendo in maniera simpaticissima, ovviamente, il guru di Pescara per noi è il professor Alberto Bagnai, che è appunto il punto di riferimento di tutti coloro che in Italia vogliono tornare alla lira e che naturalmente coprono gli insulti, chiunque la pensi diversamente. Io non discuto la legittimità delle opinioni, diciamo, è una setta un po' particolare quella del professor Bagnai, che salutiamo con grande rispetto a distanza, ma grado lui ci considera dei ricchi coglioni, per così dire, che non siamo né ricchi né coglioni. Però detto tutto questo, rispetto ai suoi adepti e ai seguaci, oltre che a lui, continuiamo a sentire i nostri ascoltatori sul tema. Ma che Cozzalone, successo che ha è della nostalgia per l'Italia a posto pubblico e politici trafficoni che ci descrive magistralmente come Totò, oppure invece è l'applauso a Mario che dice ma basta con questa Italia, fai bene a sfotterla perché ce ne sono dei residui, ma noi abbiamo la testa che guarda al futuro. Maria Teresa da Milano, che pensa? Pronto, buongiorno. Eccoci. Io ho visto il film ieri sera e sono uscita sentendomi bene, in quanto secondo me il messaggio che Checco Zanone ha voluto darci è un messaggio realistico ma positivo. Cioè uno sente che si può finalmente superare, cambiare, lasciare andare qualche cosa, per cui è come un messaggio che ti alleggerisce. perché a contatto con una società più aperta, con delle esperienze lavorative diverse, con girando il mondo, ti rendi conto che c'è una realtà diversa, che non è più sostenibile tenere un posto fisso, che c'è qualche cosa che puoi costruire comunque. Allora, Maria Teresa, assolutamente positivo. Va bene, Maria Teresa, molto molto ottimista. A me piace molto quei passaggi quando liquida la fidanzata mamma dicendo non sei retroattiva, e quindi siccome non sei retroattiva, i riferimenti alla maniera in cui si fanno le leggi in Italia diventano il modo per liberarsi di chi rompe le scatole in famiglia, che può essere che sia una chiave da applicare. Peter da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Io sono norvegese, vivo a Milano da 40 anni. Quindi per lei l'estremo sud. Sì. Adoro questa Italia così diversa e questa Italia così uguale. Perché è diversa dal mio paese, no? Perché la Norvegia è indubbiamente un paese organizzato, un paese dove una burocrazia lavora per l'individuo e non è l'individuo che deve lavorare per la burocrazia. E ha detto niente. Abbiamo l'inverso, no? Dove sistema è un sistema che si auto legittima, si auto... Pensi, un paese che ha enormi risorse energetiche nel Mare del Nord e che invece di dissiparle e fare follie ne ha incatenato una parte progressivamente sempre più elevata a un grande fondo di investimento che investe anche in Italia, ma che appunto ha un'ottica lungimirante, intergenerazionale, a differenza dell'Italia che invece fa pagare a chi non ha lavoro le pensioni. Oscar, io lavoro in quel settore, pertanto ti dico che nel sistema norvegese, quando per legge il governo, lo Stato, non può prelevare più del 4% del reddito del fondo pensione, del reddito, pertanto il patrimonio continua ad aumentare. Grandi regole. Però devo dire che questo Checco Zalone è riuscito, anche col rapporto con questa donna italiana, peraltro, che vive in Norvegia, che ha avuto questa moltitudine, tre figli con tre etnie diverse, come si chiama. Tu sei andato a vederlo perché lo mandano all'estremo nord, quindi la curiosità era vedere. Vediamo un po' come racconta questo intreccio. Sì, io sono andato con dei pregiudizi, lo riconosco. Ecco. Sono uscito sollevato e ricreduto che i miei pregiudizi non debbano essere considerati tali, perché non ha... Da un lato ho messo lo stereotipo norvegese classico, che è un pirla, come dicono a Milano, perché è uno che veramente non fa altro che seguire le regole, eccetera, eccetera. Mentre non è così, il norvegese vive in funzione anche a chi gli sta vicino, e chi gli sta vicino partecipa come lui alla vita quotidiana, e questo è non in competizione ma in congiunzione. Naturalmente lui partecipa alla vita quotidiana in questa sua esperienza nordica con delle approssimazioni che lo rendono irresistibile, tipo dire per esempio che nei paesi civili è la donna che ci va di lingua, ecco, che sono delle battute che naturalmente fanno esplodere la sala e rappresentano in maniera collassata una residua distanza sufficientemente elevata ancora rispetto alla cosa di nord e sud. Però Peter ha avuto questa idea da norvegese che gli è piaciuto. Riccardo da Milano, come la pensa? Pronto? Sì. Ciao Oscar. Eccoci. Io la penso un po' come Renato, cioè purtroppo noi italiani, io sono italiano, mi dicono, noi italiani diciamo di voler cambiare, ma a patto che siano gli altri. Bravo, a patto che siano gli altri, cioè... questo è il nostro problema. E poi non vogliamo mai metterci in gioco. Abbiamo paura di metterci in gioco. O meglio, anche quando lo facciamo, penso ad alcuni tratti del governo Renzi, che secondo me sono da questo punto di vista molto caricati, perché lì la comunicazione conta più e prima del fatto. Oppure raccontiamo di metterci in gioco, anche se nella realtà dei fatti lo facciamo molto meno di quel che significa davvero mettersi in gioco. Mettersi in gioco significa tagliare spesa pubblica e diminuire le tasse in proporzione, e qui invece si dice che le tasse scendono quando con una mano si fa e con l'altra si ripiglia, eccetera eccetera, quindi non lo so, ecco, da questo punto di vista non lo so. Guarda, a me, secondo me, adesso non è per caricare quello che dici tu, ma lui, Renzi, sta un po' usando la tecnica di Berlusconi, cioè dire che va tutto bene, cari italiani state allegri, sto lavorando per voi, perché anche Berlusconi diceva che stava lavorando per noi. Diciamo, a lui riesce meglio che a Berlusconi, secondo me. Diciamo che i tempi sono cambiati. Ecco, i tempi sono cambiati. Naturalmente gli italiani vogliono un po' di ottimismo. Qualche giornalista un po' più accondiscendente. Non ne hanno abbastanza. Il problema è questo: in questo paese basta che uno sale sullo scanno, trova subito la condiscendenza. Sì. È vero che però ci sono delle fasi in cui poi gli italiani le linee di rottura le fanno emergere, poi magari dopo... non le sanno governare bene, vedi, bravo, Mani Pulite. Comunque, ragazzi, il fenomeno 5 Stelle significa comunque che una potentissima linea di frattura c'è stata e c'è. Quindi da questo punto di vista anche lì difficile leggerle davvero dentro le pieghe, perché quanti poi sono lì di rottura per dire diamo la spallata politica, ma poi di fondo vogliamo Stato, pensione di invalidità eccetera, pure tra gli elettori dei 5 Stelle, valla a sapere, per così dire. Però c'è una forte componente comunque, non lo sappiamo, diciamo che diciamo sembra esserci, poi sembra non lo sappiamo. Quello che è evidente è che il più della partita politica tra amministrative e poi le politiche dopo il referendum si gioca per Renzi proprio su questo doppio tasto di continuità nostalgica, pronta a sottoscrivere anche l'eccesso di esagerazione ottimistica, perché la gente sa che non è proprio così, ma tanto vale dire che è così, in cambio però non ci tocchi davvero nella tasca, e il fatto che il rischio invece della spallata in arrivo, perché i 5 Stelle ci sono sempre a Roma, oggi hanno vinto a tavolino, se si dovesse votare, a Torino, Fassino, nella mia Torino, dai Raudo e da Sella, che gli fanno posizione a sinistra, viene mandato al ballottaggio, Fassino al ballottaggio non è sicuro a Torino di vincere contro i 5 Stelle, a oggi. Allora, per il PD e per Renzi, siamo partiti da Zalone, ma vedete che capire il più travolgente successo cinematografico italiano, che cosa rivela degli italiani? Beh, non è vero che non è un problema anche per chi fa politica, e dovendo dosare rottura o continuità, perché in effetti invece è una lezione politica. Da questo punto di vista, Carlo Alberto, tu citavi prima la rottura dei poli che attirano il risparmio italiano, una rottura, una discontinuità profonda rispetto alle altre serie mensili. Secondo te gli italiani oggi cercano più rassicurazione oppure no? No, cercano nuove rassicurazioni, che quelle vecchie non sono più credibili, quelle orali, quelle rassicuranti del facciamoci, pensiamo noi, tanto va tutto bene, non sono più credibili. Il sistema normativo è cambiato, gli italiani non l'hanno capito, il governo se n'è ben guardato dallo spiegarlo, i media altri, tanto lo sai che abbiamo fatto, quanto tempo è che cerchiamo di spiegare agli italiani che questa normativa entra in vigore e ci trova del tutto impreparati, no? Ora, il vero problema è che gli italiani, come sul posto fisso, no? Ridono di quello che sanno di non poter più disporre. E oggi sanno di non poter più disporre della certezza, della garanzia, del tutto blindato e tutto supportato dallo Stato, però non sanno ancora che tipo di nuovo sistema di regole sta arrivando, perché un sistema di regole c'è, un sistema ovviamente più incerto, più fragile, ma un sistema di regole c'è. Il problema è spiegarglielo, il problema è far capire agli italiani che, no, per esempio quelle sulle banche non le controlliamo più noi, quindi qualsiasi appello, dimostrazione, cartello... Però io vi do un altro segnale, nelle ultime tre settimane, ho iniziato ad aumentare le lettere, gli sms di ascoltatori, che di fronte al fatto che la gente inizia, dopo un anno, inizia a vedere che le cifre dell'occupazione non sono il travolgente successo di occupati aggiuntivi, inizia a dire... Beh, allora forse ci ripenso. Aver ritoccato l'articolo 18 e aver speso tanti soldi nelle tasche di industriali, perché questi gli italiani iniziano a capire che la decontribuzione è stato un sostegno all'impresa, appunto. Se ha avuto solo questi effetti, allora aveva ragione chi criticava e non voleva questa riforma. Iniziano ad aumentare queste cose. Questi si vede anche nei sondaggi. I voti che vanno a una sinistra che tenta esperienze fuori dal PD sono in ripresa, non sono in diminuzione in questi ultimi tre mesi. Vediamo. Intanto sospendiamo qui la riflessione su Zalone, perché quando torniamo tra un minuto abbiamo mezz'ora di riflessione su quello che ci stanno dicendo i mercati e la Cina. Tra un minuto. Della belva. Allora, una settimana che è cominciata sui mercati grande proprio. Alla grande. Allora, noi quando abbiamo l'appuntamento fisso ogni sabato con la Cina, vi facciamo sempre sentire questa sigletta. Hey, have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style. Ecco, come capite, quindi questa è una canzoncina che dice: ma che cosa succede? Che c'è di nuovo in Cina? E dice il presidente Xi Jinping e si inizia a magnificare in sintesi, però è una canzoncina con un jingle molto attraente anche chi la canta, della verità, sul tredicesimo piano quinquennale che è in corso di attuazione in Cina. E come vedete è un inno all'ottimismo del fatto che il partito tiene tutto sotto controllo, come scriveva Lucrezia Reichlin sul Corriere della Sera l'altro ieri, dicendo che i mercati sono stabili e cattivi, la Svizzera è cattiva, noi con i comunisti cinesi, naturalmente lei non diceva comunisti, ma lo dico io apposta, e invece non è così, non è affatto sotto controllo la situazione dei mercati finanziari in Cina, come vedete, una sberla di inizio anno che ha fatto immediatamente andare a ribasso le previsioni di stima del PIL per tutto l'anno, di commercio mondiale e così via, e che naturalmente potenzia i segnali già di rallentamento e di crisi profonda o recessione di molti BRICS, cioè ex paesi emergenti, Brasile, Sudafrica, eccetera, eccetera. Si aggiungono le tensioni crescenti in salita tra Boko Sunnita e sciita sullo scacchiere medio orientale, gli attacchi dell'ISIS sono pressoché quotidiani, gli andamenti dell'inflazione sono desolatamente negativi rispetto a chi dice che il QI, viva, il QI sta servendo solo a coprire i rischi sovrani dei paesi più o meno indebitati, per il resto i suoi effetti sono ipertrascurabili, eppure il concerto è dire che sui QI bisogna estenderli, andare più avanti, eccetera, eccetera. Però cioè, è stato un inizio d'anno sui mercati un po' complicatuccio. Allora, sentiamo Mario e Carlo Alberto che ci dicono, ma è con noi anche, poi ci raggiungerà come sempre per il nostro appuntamento fisso da Pechino, Rita Faticoso, intanto è con noi Andrea Bolla, redattore del sito Piano Inclinato, consulente finanziario, che questa settimana tutti i giorni si è dovuto naturalmente cimentare con spiegare ai lettori e ai clienti cosa diavolo sta succedendo. Grazie Andrea di essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Cina, te lo aspettavi o è tutto sotto controllo come dice Lucrezia Reichlin? No, allora l'ansia diciamo è proprio quella del fatto che il governo cerca di tenere le cose sotto controllo, ma le cose gli sfuggono di mano e i movimenti tampone che vengono fatti per fermare il mercato, per far sì che non, come dire, il mostro non venga svelato, dimostrano proprio, come dire, il timore che il governo ha di perdere la presa sull'economia. E poi voglio dire, diventano oramai dei veri tetti di sfida, poi mettono l'asta al 5%, al 7%, il mercato li sfida a superarli e a farli saltare. Perché, sai, no? Li sfida oppure li teme, nel senso che se io voglio vendere e so che a un certo punto mi si chiuderanno le porte, quando il mercato si muove troppo faccio la corsa a vendere prima degli altri. Però la cosa ridicola, Andrea, è che tutto l'Occidente, il mondo della libertà, chiede in realtà ai comunisti cinesi di continuare a fare così, cioè che i mercati finanziari dovrebbero stare aperti al solo patto di poter crescere, che è l'idea che, come evidente, il mercato non faccia il prezzo. E questo è quello che noi stiamo chiedendo ai comunisti cinesi di fare, e anzi li rimproveriamo per non farlo abbastanza bene. Non è un po' paradossale? Sai, credo che il punto sia che la capacità di contagio che ha la Cina è notevolissima. È una capacità di contagio che riguarda i creditori, le commodity, il fatto che sia un esportatore di primaria importanza a livello mondiale, il fatto che la svalutazione della sua moneta, che loro stanno contrastando a dispetto di quello che dice il mainstream, la svalutazione della loro moneta mette in difficoltà una serie di altre economie circostanti. E poi c'è il tema dei petrodollari, perché comunque, giustamente prima facevi notare che la questione si estende fino all'area medio orientale. Secondo me quello che gli stiamo chiedendo è di gestire un soft landing in qualche modo, cioè fare in modo che le loro difficoltà si spurghino progressivamente, molto progressivamente, cioè che in realtà i prezzi dei loro asset non si riallineino a valori reali. Posso fare una battuta? Il capitalismo, cioè, è nelle mani del comunismo, quindi. Sì, il capitalismo è il comunismo, certo, perché il detentore di maggiore quota di debito sovrano americano e corporate americano che ci sia al mondo, per questo è entrato di corsa nel WTO, per questo in queste ultime settimane ha ottenuto il riconoscimento alla fine di valuta tradable, che non lo è affatto il renminbi, ma l'ha ottenuto ed è entrato valuta di riserva del Fondo Monetario, per questo ha la clausola di economia di mercato che sta ottenendo l'Unione Europea, per questa roba qua, perché siamo tonti ragazzi, perché siamo deboli, non ne faccio una questione di lotta ideologica, dico che affidarsi a chi ha disallineamenti così profondi nel valore dei prezzi degli asset finanziari, ha degli attivi del credito ufficiale e non ufficiale così profondamente inguardabili, è un rischio pazzesco, perché il mercato ha ragione a pretendere in realtà un riallineamento, per esempio, del valore dello yuan renminbi dell'8-10%, e il mondo invece chiede ai cinesi di non farlo perché questo avrebbe effetti tragici. Andrea, mi sbaglio secondo te? No, dici bene, perché il fatto che lo yuan possa svalutarsi in maniera così importante farebbe defluire capitali in maniera rilevante dal paese, e questo non farebbe altro che indebolire fortemente le posizioni del governo e delle sue riserve nei confronti appunto degli asset che ha, che sono quelli più liquidi, sono poi i treasury e i titoli di Stato europei. Esatto. No? Quindi loro hanno una scorta che noi, guardandola da qua, ci sembra enorme di riserve, però dobbiamo anche considerare che una parte sono fisiologiche, sono necessarie poi per la gestione di import-export, per la gestione dell'economia, e alcune di queste non sono per niente liquide. Eh già. Magari sono, sentiamo anche Mario, che questa settimana anche lui ha scritto molto, per, secondo me, insomma. Che dici, Mario? Sì, sono d'accordo con Andrea, ovviamente. Il problema non è non sono i crash del mercato azionario cinese, che è staccato dal resto del mondo, cioè non è sistemico il mercato azionario cinese, tra l'altro in un paese che sta rallentando vistosamente. Le due principali borse cinesi hanno dei multipli che non stanno né in cielo né in terra, per cui è fatale che dovrà scendere pesantemente. Il problema non è quello, come diceva prima anche Andrea. Qui stiamo parlando di multipli 45-50 volte. Sì, no, ma infatti, anche considerando le aziende tecnologiche, però sono entrambe due borse, Shanghai e Shenzhen, che sono centrate sulla manifattura e sulla tecnologia, e sono dei multipli che sono incoerenti con la situazione cinese come fondamentali. Ma il problema appunto è il deflusso di valute. Le riserve sono molte, apparentemente molte, in realtà no, una parte appunto, come si diceva prima, va destinata alle importazioni, una parte va destinata al servizio del debito espresso in valuta. È chiaro che quando non ci sono più opportunità di fare soldi, cioè investimenti attraenti, tutto il denaro caldo che è entrato in Cina defluisce, e defluendo c'è una pressione al ribasso del cambio, anche se la Cina fa ancora 600 miliardi di dollari all'anno di surplus di bilancia commerciale, però i flussi di capitale sono enormemente maggiori rispetto ai flussi di bilancia commerciale, per cui la pressione al ribasso sulla valuta è fatale. Ma una pressione al ribasso sulla valuta implica che la Cina comincerà ad esportare deflazione e a destabilizzare prima di tutto i propri vicini, Corea, Giappone, eccetera, ma più in generale anche, diciamo, quello che sta succedendo sulle materie prime è indicativo. Quindi non è che la Cina, vorrei rassicurare alcuni astutissimi analisti e osservatori del sabato mattina o del fine settimana, la Cina non sta gestendo un deprezzamento opportunistico. La Cina sta, come diceva prima Andrea Boda, subendo questa pressione al ribasso sul cambio, giusto per mettere i puntini sulle i e i trattini sulle t, perché in questo paese facciamo propaganda politica di cortiletto anche su cose che sono infinitamente più grandi di noi. Sì, verissimo, verissimo, verissimo. Ma tra l'altro a me preoccupa parecchio tutto questo anche dal punto di vista industriale, perché proprio nel momento in cui hanno qualche difficoltà in più sull'afflusso di capitali finanziari, cercheranno di aumentare ulteriormente i capitali che entrano come import e quindi alzare la produzione. Così a naso, io non sono un economista. No, ma per capirci, dare qualche elemento in più a chi ci ascolta, stiamo parlando il rallentamento della crescita, al di là dell'attendibilità delle statistiche cinesi, un problema storico della Cina. Significa, tanto per avere un'idea, cioè la Cina è diventata il 50% del mercato mondiale dell'acciaio, per esempio, 50%. Voi capite che È la fabbrica del mondo ormai. Ecco, quando si tratta di diminuzione dei tassi di crescita su consumi e produzioni di questo rilievo sul totale mondiale, comunque una variazione nell'ambito del 10% della crescita attesa significa un impatto devastante, per questo che poi i mercati delle commodities eccetera eccetera vengono colpiti, sconvolti, e oltretutto quello era diventata la parte del mondo in cui si parlava di produzione, di offerta e domanda tutte addizionali, incrementali rispetto agli stock, mentre da noi per esempio ci sono settori, il settore dell'acciaio per dirne una, è il classico settore in cui si lavora per la sostituzione più che per l'incremento, però per esempio questa roba qui ha un effetto persino su partite che possono sembrare molto lontane. Ilva, per esempio, Ilva di Taranto, che è una delle decisioni su cui rischia di più la faccia Renzi nel prossimo futuro in Italia, beh, da quello che succede in Cina quest'anno può modificare il suo scenario, decidere che cosa continuare a produrre e come continuare a farlo, quante milioni di tonnellate, perché c'è un problema di sovraccapacità in eccesso non solo europeo, ma che a questo punto diventa drammaticamente anche di sovraccapacità in Cina di laminati piani, cioè della parte di acciaio meno specializzata, cioè esattamente quella su cui Ilva era diventato il maggior stabilimento siderurgico europeo, tanto per dirne una. Allora, per dirne un'altra, ieri è uscita una metrica di Oxford Economics, effetto se la Cina continua a questi diciamo ritmi di indebolimento per almeno un semestre, per tre trimestri, perdonatemi, nel 2016, l'effetto stimato sui tassi di crescita fin qui valutati 2016-2017 nei maggiori paesi avanzati era un effetto di crescita che mi ha molto interrogato quando ieri ho visto questa proiezione di Oxford Economics, perché prevedeva per esempio per la Germania un meno 0,9% rispetto alle stime di crescita accumulate 2016-2017, per l'Italia un meno 1,2%. E voi capite che siccome noi ci stiamo battendo dietro il governo Renzi nella speranza di crescere un punto e mezzo nel 2016, se tra 2016 e 2017 l'instabilità cinese continuasse a questi ritmi e l'effetto sull'Italia sarebbe accumulato in due anni meno 1,2%, capite che ci stiamo giocando una quota molto rilevante della risicata crescita italiana in attesa. Andrea Boda, ai clienti investitori che messaggi si dà in questo periodo? Dunque, ai clienti investitori in questo... La domanda da un milione di dollari, che messaggio si dà in questo video? Aiuto! Beh, diciamolo in un modo diverso, come fai a cercare di tranquillizzarli? No, ecco. Dai. Dici che sei l'uomo delle pulizie quando ti suona il telefono e non c'è nessuno in ufficio. Questa è un'ottima... No, beh, la realtà è che naturalmente, come dire, non si può restare esenti nel momento in cui si è investiti da situazioni così ampie, sia in termini di portata che in termini di estensione del contagio. Ci sono, come dire, sicuramente aziende che si difendono meglio di altre, quindi ci sono settori che sono già più massacrati dal mercato e magari offrono spazi per prese di beneficio inferiori nel momento in cui il mercato è ribassista. Naturalmente si parla tendenzialmente di ottenere una performance relativa, cioè di fare un po' meglio del mercato molto negativo. Ecco, mi pare questo un linguaggio sincero di chi non promette miracoli, perché i miracoli nella finanza... Ma chi vuole fare questa professione per qualche tempo, ecco, che sopravvivere più di qualche settimana, credo che promettere miracoli non sia una grande strategia, esatto, perché nel giro di poco tempo... Si finisce appesi a un lampione con i clienti. Andrea, sotto. Posso fare una domanda io? Ma allora, la gente lo capisce cosa vuol dire sovraperformare? Cioè che se il mercato perde il 10% e tu gli fai perdere l'8%, stai andando meglio bravo. Sei stato bravo, oppure vogliono a tutti i costi i rendimenti? Perché questa è una cosa. Diciamo che qui posso usare la mia doppia esperienza. Ti posso dire che come diciamo blogger la tua domanda è assolutamente pertinente, nel senso che la massa indistinta fa molta fatica a distinguere il relativo dall'assoluto. Ma il cliente? Devo dire che i clienti, siccome gli sto molto addosso, faccio tanta, come dire, sforzo di divulgare le questioni, fare in modo che loro capiscano le differenze, così come capiscono che quando fai più 10 in un mercato che fa più 11 non sei bravo, no? No, appunto, così che capiscono anche quando fai meno 8 in un mercato che fa meno 10 vuol dire che sei bravo, è così, è così. E questo significa realismo. Però vedete, c'è bisogno di, ci sono bisogno di tanti Andrea Boda e anche di comunicatori economici, diciamo, che sappiano di cosa parlano, e mentre io credo che sia questa la strada per una maggiore alfabetizzazione economica e finanziaria, non credo affatto a questo infortunio clamoroso di Alberto Lesina questa settimana, che vuole l'esame a punte rinnovabile ogni 10 anni per tenere un conto corrente bancario. Io preferirei l'esame a punti per votare. Esatto. Allora facciamo il suffragio ristretto, perché quello ha conseguenze più elevate che tenere conti correnti bancari. Grazie ad Andrea Boda, e torniamo tra un minuto leggendo qualche sms vostro, ma con Rita Faticuso da Pechino. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, prima qualche sms di nostri ascoltatori, perché ne abbiamo lasciati indietro tra Zalone, l'ottimismo, il pessimismo. Ce ne leggi qualcuno, Mario? Allora, guarda, ce ne sono due. Ho fatto un grosso distillato oggi, perché manca, diciamo, al di là dell'abituale livore, non ci sono spunti rilevantissimi. Colpa anche vostra se gli investimenti piangono. Una briciola di ottimismo, per favore. Fantastico. E cioè, questa cosa è proprio l'essenza della teoria economica. Infatti, cioè, perché si dice che l'imprenditore deve essere ottimista, altrimenti non farebbe l'imprenditore, però questo rovescia la causalità. No? Poi c'è un'altra che mi riguarda direttamente, molto carina. Seminerio, la smetti di dire che destra uguale cacca? Se c'è qualcuno veramente liberale in Italia è sempre più vicino alla destra che non alla sinistra. Basta ridicolo. Ora, caro Francesco da Firenze, ti prego, mandami un sms con l'indirizzo del tuo spacciatore. Per quanto riguarda la destra italiana, terrò riservato per me, e perché sono certo che il tuo spacciatore ti allunga della roba di qualità eccelsa. Guardate, noi rispondiamo così perché voi non avete idea della durezza, della violenza delle esternazioni sui social. Anche su questo bisognerebbe riflettere nel nostro paese. Comunque, l'idea che a criticare ovviamente i mercati vanno giù e spiega perché Lucrezia Reichlin, da una parte, finisca in prima del Corriere della Sera a scrivere quello che scrive, e spiega dall'altra perché tutto l'Occidente sta implorando ai comunisti che il loro mercato funzioni tutti i giorni, ma può solo andare su. Cioè, siamo tutti vittime di alcuni paradossi, di alcune illusioni visuali, ottiche, come dire. Allora, però, caro Alberto, non ci hai detto ancora la tua su questa crisi dei mercati. Tu come la vedi? Con sfrenato ottimismo questa crisi dei mercati? No, io voglio segnalarvi due cose. Che la Cina sta affrontando una transizione importante dalla manifattura dei servizi. Se voi ancora pensate alla Cina come la fabbrica del mondo, state guardando una Cina hai ragione. Dire, che non è più quella che vedo io. Ecco. La quota sul valore aggiunto dei servizi è drasticamente salita. Però ecco, non lo sa fare ancora, perché mentre sulla tecnologia, per esempio, ha cominciato bene, sulle banche, sulle assicurazioni, sul mondo diciamo dei servizi alla persona, è indietro di 10 anni, 20 anni. E quindi trasferisci da pioniere? No. No, e quindi c'è un'opportunità di nuovo. Io non la penso. Il governo cinese sta prendendo delle scopole, perché finalmente si rende conto che non può manipolare il mercato. Veramente paradosso di quella specie di salvavita, no, che hanno messo sulla borsa, perché dire può solo crescere la borsa, ma se scende la fermiamo. E ovviamente è stato un invito a vendere, no? E questa ingenuità, che è un po' l'ingenuità del governo, che dice potete investire nelle banche amiche, no? Mi raccomando, ma se perdete dei soldi tanto vi rimborsiamo noi. Ecco, questo dirigismo implicito sta lasciando spazio, ma in poche settimane, in pochi mesi, secondo me è un salto realismo. Poi le attese sulla Cina sono sempre eccessive, sia perché deve fare da traino all'economia mondiale, sia che deve fare da tampone. Okay. Francamente non possiamo chiedere questo alla Cina, dobbiamo invece affiancarla, capirla, perché la sua transizione a un'economia moderna più aperta è nell'interesse di tutti. Allora, Rita, intanto abbracci, buon anno, buon tutto, eccetera, eccetera. Ci siamo sentiti poco prima del Capodanno e ancora ti ringrazio. Ma detto questo, ciò che lì si vive e si tocca con mano, in quello che arriva degli effetti, con questo gemito in sottofondo, voglio sperare non sia dovuto a pratiche improprie, ma sia un problema di comunicazione sulle linee, per così dire, detto questo, che lì come la reazione, se si coglie, cogliibile, a questo scossone di inizio anno in Cina, qual è, Rita? Guarda, io penso che i primi ad essere veramente preoccupati sono i vertici del partito e comunque insomma la nomenclatura, tanto è vero che sono susseguiti questi rumors di una caduta della testa del capo della Consob cinese Xiao Gang, che doveva essere l'uomo della provvidenza, l'uomo che doveva resistere contro il deprezzamento, la fuga dei capitali, tutto quello di cui avete parlato prima. E l'impatto politico di questo fallimento di inizio anno sarà molto pesante, probabilmente molto più pesante della emorragia di i 5 trilioni che sono praticamente spariti ad agosto a causa del tracollo dei mercati finanziari. Volevo anche dire che le riserve valutarie, non sono il famoso tesoretto, non sono ancora come dire completamente intatte, stanno subendo una caduta micidiale proprio perché bisogna attingere a quelle per sollevare lo yuan dal continuo salasso a cui lo stesso governatore della banca centrale lo sta sottoponendo. Quindi, ma ci sono critiche, è una situazione veramente difficile. Ci sono critiche al governatore della banca centrale, che è uno degli uomini forti in Cina. Sinceramente lui è una persona assolutamente inattaccabile. Pensate che al terzo mandato è ben fuori dai limiti della pensione. Xi Jinping l'ha richiamato. L'unica faccia, diciamo, proponibile sul resto del mondo, una persona molto, quindi non si tocca. Ma sinceramente in questi giorni, ho scritto anche sul Sole, c'è un po' una lucida follia, no? Il comportamento assolutamente inspiegabile da parte degli operatori di continuare a deprezzare in maniera consistente la valuta proprio quando il mercato va a picco, come in questo caso inizio anno, addirittura per due volte rimane ingrippato a causa di un meccanismo che è stato introdotto per la prima volta, il blocco automatico, e che non ha evidentemente funzionato. In questo momento difficile per la Cina ogni anno, perché si avvicina il Capodanno cinese, c'è bisogno di avere maggiore liquidità, le aziende devono pagare i dipendenti che vanno in ferie, devono chiudere i conti del bilancio fiscale, che è sempre a febbraio, quindi è veramente il momento peggiore per come dire, esercitarsi in questo tipo di cose. Detto ciò, il prezzo politico è molto forte. Pensate che a marzo ci saranno le due sessioni del Parlamento, dove il 3 marzo Li Keqiang dovrà fissare il tasso ufficiale di crescita, il benchmark del 2016, il famoso numerino, no? Numerino. Ogni anno. E quindi, insomma, ci si sta arrivando in una maniera piuttosto... Lo stesso piano quinquennale, come dicevi tu prima, dovrà essere varato definitivamente, quindi... È un momento molto, molto, molto difficile dal punto di vista interno. Poi tutto questo discorso al quale facevi riferimento anche tu della overcapacity, ci sono almeno 5 settori devastanti da questo punto di vista, perché sono veramente dal punto di vista industriale da rottamare subito. Per cui, ecco, veramente è un frangente complicato e, diciamo, errori anche di gestione di queste riforme del mercato finanziario possono costare molto caro. Non ci sono apparentemente, tutto viene, cioè viene messa la sordina a tutto quello che succede, ma sotto sotto la lotta di politica c'è. Ma io ti posso fare una domanda, sì, che viene da, sì, purtroppo da un mio limite, perché io non leggo cinese, quindi posso leggere solo ciò che in inglese o in francese o un po', certo, meno in tedesco, però esce dalle fonti cinesi. Però nella stampa economica, finanziaria, nella stampa generalista cinese, fino a che punto si spinge la possibilità in questi giorni di analisi che, con l'apparenza di essere tecniche, abbiano anche delle critiche di linea sulle cose tecniche, su come gestire il mercato? Bisogna leggere molto, molto tra le righe. La parola cinese, evidentemente, la parola scritta è qualcosa che contro i vari significati degli ideogrammi possono sicuramente. Ecco, però quello che serpeggia maggiormente sono i nuovi canali di informazione che difficilmente si riescono a tenere sotto controllo, i social network, i grandi, come dire, portali sui quali che hanno cominciato a fare informazione, Tencent, Sohu, tutti questi altri qui, dove collegandosi a dei blog ufficiali, quindi non pirata, ci sono soggetti che diffondono notizie e pareri, anche e soprattutto nel campo economico, molto importanti. E difatti anche la notizia di Xiao Gang, che aveva rassegnato le dimissioni, è stata subito cancellata. Ma noi abbiamo fatto in tempo a beccarla e quindi le abbiamo dato notizia. Per cui diciamo che bisogna veramente, più che sui giornali, che come sapete hanno il verbo, e soprattutto quelli chiaramente di governo, fino a governativi, bisogna andare a pescare, a fare questo mining, questo searching nei social, che sono sicuramente molto, ma molto più attivi da questo punto di vista che non i nostri occidentali. Molto più attivi dei nostri occidentali, dici? Assolutamente, sia come potenza, sia come numero di iscritti, sia come vitalità, è un qualcosa che sicuramente preoccupa molto anche le autorità, l'informazione, il controllo, perché ovviamente soltanto uno di questi, WeChat, ha 600 milioni di account. Ma non è un caso però che, che l'esercito popolare cinese e i servizi che insomma da lui sono controllati e l'agenzia governativa al mondo con il maggior numero di ingegneri, esperti di software, eccetera, eccetera, per tenere sotto controllo i diversi aspetti e tutte le diverse questioni riconducibili alle reti. Cioè le grandi scuole di hacker che vengono dai pesantissimi investimenti in termini di miliardi e miliardi di dollari del governo cinese con i suoi programmi riservati su questo, sono quelli più ingenti al mondo, quindi, eppure ciò malgrado non ci riescono, come dice Rita. No, difficilmente si riesce ovviamente a, però mi chiedevi se e chi in qualche modo accenna un tentativo critico, e dicene. È lì che bisogna andare a pescare. Ah bene, intanto io ti ringrazio perché ti ho sentito anche che eri praticamente in diretta mentre camminavi per le vie di Pechino, da quello sì, che sentivo. Sì, sto camminando e sono praticamente ad Harbin, la città a meno 20 gradi, quindi un momento drammatico anche per me, oltre che per la Cina, dove c'è il Festival del Ghiaccio. Festival del Ghiaccio, ho capito. Beh, certo. Palazzo più alto fatto in ghiaccio. Per te che sei pugliese, non proprio il massimo. Intanto, grazie Rita, ci hai dato... Però vedete, cari ascoltatori, Rita ci dice che in realtà i grandi siti e portali sui temi economici e finanziari italiani sono più vivi e danno servizi migliori di quelli italiani. C'è sempre da riflettere anche dove c'è da criticare. Grazie Rita, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta con i compagni dei conti della Belva, Oscar, Mario, Renato e Carlo Alberto con l'orso abruzzese abbracciato. Saluti a tutti. Ma Carlo Alberto, di la verità, che tu c'hai tra i clienti l'esercito popolare cinese con tutti i tuoi... Di la verità, tu sei un professore della Bocconi solo di copertura, ma in realtà sei uno di loro. Beh, ti confesso che qualcosa l'esercito cinese, le aziende in cui lavoro hanno anche... Lo so. Ma noi ti teniamo, noi gli amici dell'Occidente, caro Carlo Alberto Bocconiano, ti teniamo d'occhio per questo, perché conosciamo le tue... Teniamo d'occhio i cinesi che ci danno tante lezioni sugli errori e sulle speranze di un mondo che cambia. Vedi, vi segnalo a tutti la diplomazia con cui Carlo Alberto parla della Cina dei potenziali reali clienti. Però tra l'altro l'esercito e tutta la parte di hacker è stata usata anche parecchio e mica da ridere su tutta la parte industriale, è una delle chiavi attraverso cui hanno penetrato fior di aziende di tutto il mondo, dove hanno, diciamo, avuto modo di dare un'occhiata. Hanno replicato a distanza documenti. Per alcuni settori dell'armamento, dei sistemi di difesa e sicurezza, per alcuni settori di 20 anni, per altri 10, per altri 5, ma hanno replicato architettura e caratteristiche di piattaforme e sistemi di difesa e sicurezza di tutto l'Occidente, e quando poi l'Unione Sovietica chiuse le cose, anche dei russi, ma i cinesi in questo sono spettacolarmente per dirne una, questa settimana, anzi negli ultimi mesi, il missile Hellfire, che è sparito da una manovra NATO ed è sparito dall'Europa per riapparire a Cuba. Informo i nostri radioascoltatori che ci sono stati i cinesi a organizzare l'operazione ed è stato banalissimo, perché è bastato allungare una bustarella ridicola all'impresa trasportatore spagnola che c'aveva l'Hellfire. Hanno scambiato nave dove metterlo e l'hanno mandato a Cuba. Ci siamo sbagliati. Vabbè, funziona, il mondo funziona così. Allora, c'erano ancora qualche sms però, Mario, a cui valeva la pena. No, ce n'è uno abbastanza carino. Dice: sono emozionato ascoltando il podcast della scorsa puntata. Ho scoperto che mio figlio per nascere ha aspettato il compleanno di Mario. Ma sarà un buon auspicio. Ma certo, oddio, che lo è. Certo. Io avrei qualche dubbio, però ma auguri. Certo che lo è. Caro auguri in ogni senso, diciamo. No. Caro ascoltatore, lei ci deve mandare l'indirizzo, perché noi le manderemo ogni 3 mesi una collezione di gufetti che crescono in scala con cui far giocare il piccolino. Sergio da Roma. Come la pensa lei? Ci ha telefonato. Allora, la sua opinione. Sì, no, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie. No, la penso che la crisi non è assolutamente una sorpresa. Chi si interessa di Cina, di Estremo Oriente, io ricordo alcuni tweet che ho scritto già a settembre-ottobre, che la bolla stava esplodendo. In Cina è in atto una profonda ristrutturazione del sistema politico ed economico, attenzione, con una classe dirigente che è molto più lungimirante e capace di tante classi dirigenti europee. E il problema che stanno affrontando fondamentalmente è il supporto del mercato interno, la domanda interna, l'abolizione della legge che impediva di avere più di un figlio di alcuni mesi fa, va proprio in questa direzione. Quindi si cerca di supportare l'economia attraverso un mercato interno che ancora ha una domanda molto molto bassa. E questo ovviamente comporterà, quando salirà la domanda interna cinese, un riassetto un po' a livello globale. Gli occidentali pregano, diciamo, che la Cina continui a crescere, come diceva Giannino. In effetti l'occidentale, anche se è improprio chiamarlo così, più vicino che l'Australia, con il rallentamento dell'economia cinese ha dovuto affrontare una crisi di governo, una profonda crisi politica recente, proprio perché la sua industria estrattiva mineraria non riesce più, diciamo così, a fornire, diciamo, ad essere drenata dalle commesse cinesi. No, altra ripercussione, una delle ragioni per la crisi che è iniziato a colpire sempre più gravemente Sudafrica è più o meno lo stesso effetto a catena, perché stiamo parlando sempre di risorse che hanno lo stesso impiego. Grazie Sergio per questo quadro. Sì, non è una sorpresa, anche perché poi dopo quello che era successo ad agosto, nella piena estate, in Cina si capiva che era solo l'inizio, per così dire. Io trovo molto paradossale che siamo come Occidente tutti inginocchiati a pregare che facciano bene i comunisti, cioè che impediscano ai valori, cioè espressi dai prezzi, di allinearsi a un mercato vero. Però la storia è fatta di paradossi, c'è poco da fare, e quindi bisogna accettarla. Ma continuerò abrasivamente a dire che la soluzione vera si avrà solo quando i prezzi saranno lasciati liberamente in grado di valutare i veri valori degli asset, siano essi finanziari o siano quelli del cambio delle valute. E funziona così. Tutta l'illusione di impedire il riallineamento dopo massicci investimenti forzati, che è il problema del fine tuning delle grandi crisi mondiali, si riduce a questo: credere attraverso le tecniche di impedire il riallineamento dei valori è una illusione eterna del politico, del regolatore, non trovi, Mario? Sì, anche degli imprenditori ogni tanto. E soprattutto, diciamola tutta, le autorità cinesi, quando hanno avuto l'opportunità di sviluppare il mercato azionario, non hanno permesso lo sviluppo di strumenti che avrebbero favorito la liquidità e avrebbero evitato le posizioni estreme, tipicamente le vendite allo scoperto. Vendite allo scoperto limitate a dei casi talmente esigui da essere ininfluenti. Le vendite allo scoperto servono a ribilanciare un mercato quando va in una direzione, servono a fornire liquidità al mercato, liquidità compensativa. Purtroppo invece loro sono caduti vittime della fallacia secondo cui le vendite allo scoperto sono una creatura demoniaca. Bravo. E sono il male, il maligno con la maiuscola, e ora si trovano con un mercato che è ferocemente illiquido. Speculatori. E pagheranno, esatto, e pagheranno un prezzo altissimo per il riallineamento dei prezzi delle loro azioni alla realtà del rallentamento. E solo quando ci sarà la cosa sarà sotto controllo. Modesta opinione naturalmente del minoritario. Allora, Renato, questo bello inizio di d'anno ti vede con qualche elemento, oppure tutto, Renzi ha risolto tutto, non ci sono più prassi dell'Italia, no, che non infatti va. Volevo parlarvi di una cosa bellissima, oh, vedi, finalmente. Di una cosa bellissima che è stata inserita nella legge di stabilità, ecco, che una volta si chiamava finanziaria, adesso si chiama stabilità, perché siamo stabili, siamo ben stabili, piantati, siamo per ottimisti, terra, e ottimisti, stupiremo il mondo. Al comma 376, perché non so quanti commi sia la legge di stabilità, quasi 1000, ma ha introdotto una cosa bellissima, perché siamo tutti ottimisti, la società benefit. Quindi tu nello statuto della società ci puoi scrivere che è una società benefit. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire, non so, perché così. Come non so, sarà scritto. Ma sì, c'è scritto che tu puoi dire che non hai solo la finalità economica. Quindi, non so, a questo punto credo che sia qualcosa a metà strada tra la ONLUS e la ONLUS, società. E i fondi neri? E i fondi neri? Tra la ONLUS e i fondi neri? Allora, il problema mio è questo, che tutte le società in Italia, a mio parere, sono società benefit. Perché quando per le piccole e medie imprese tu hai una tassazione media che sfiora il 70%, più benefit per la società di così, io sinceramente ho qualche dubbio e ho qualche difficoltà a capire. Però lo Stato munifico e generoso riconosce anche a te, imprenditore, la possibilità di farti la tua società. No, ma questa cosa qua, secondo me, è una di quelle cose fatta sempre per le grosse società, no? In cui è così. Permettere, ti confermo, permettere all'interno dello statuto che tu non sei solo una cosa e farti un po' di quelle cose che vanno molto di moda adesso, per cui sei socialmente però consapevole, dire, responsabile, il più della quella che si chiama la CSR, cioè appunto di tutta questa filone sviluppatosi da 10 anni della social responsibility d'impresa, molto è un po' fumo. Naturalmente, caro Alberto, mi direi che non è vero, però io un po' la penso così. No, non è vero, invece la corporate social responsibility ha imposto al capitalismo di prendersi la responsabilità sulle esternalità, cioè su quello che c'è fuori dall'azienda. Per me questa è una buona cosa, sì, perché però impone all'imprenditore un orizzonte molto più alto. Non è vero che un'azienda ha come unico obiettivo il profitto. Bellissimo. Ha come metrica il profitto, che è una conseguenza del suo comportamento. Però un'azienda si muove in un sistema e deve rendersi conto che dal sistema scambia benefici e opportunità. No, e poi soprattutto che se contribuisce a innalzare il tasso di coesione ed efficienza dell'ecosistema in cui opera, ne beneficiano anche i suoi risultati e le sue aspettative. Questo sono d'accordo. Ma che bei capitalisti liberali, socialisti. No, però che il più delle attività descritte nella parte dei bilanci di CSR delle grandi imprese sia fuffa, però questo non me lo leva nessuno dalla testa. Ma in effetti c'è bisogno di cambiare quel linguaggio un po' populista e passare invece a una metrica molto oggettiva, perché secondo me, come dire, è molto capitalistico essere socialmente responsabili. E non è, come dire, una compensazione del capitalismo liberale. Infatti, è una crescita. Ma solo i liberali, Alberto, sono socialmente però responsabili, gli statalisti sono socialmente distruttori. Distruttori, bravo. Ma è ovvio. Allora, io la battuta, naturalmente, lungi da me pensare che non ci sia responsabilità verso la società da parte delle aziende. Però la mia battuta era: abbiamo bisogno di metterlo in statuto, no, oppure è una cosa che dovrebbe ogni imprenditore ma vivere, no, perfettamente, perché vive all'interno della società. Politico dall'alto, esatto, che ti invita. Queste a farlo. Sono le cose che secondo me dicono non si può fare. Benissimo, allora la compagnia dei compari, ragazzi, cari ascoltatori, vi augura un buon fine settimana da parte mia, di Mario, Renato e di Carlo Alberto. Ciao a tutti. Saluti anche all'orso che ha abbracciato per tutto questo tempo. Cari ascoltatori, continuate con la 24. Appuntamento con me lunedì alle 8:15 del mattino con Attenti alle 2 con Alberto Milan, con Alessandro Milan, perdonate, poi il pomeriggio con la versione di Oscar. Buon fine settimana. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte.